non più solo oggetto contundente, la uso, me la cavo, dai, mi riesco a fare qualche cosettina anche io. E anche quella già si vuole, guarda, qua in campagna già si vuole, e noi ce l'abbiamo. E adesso con i tempi che corrono bisogna stare molto attenti, soprattutto quando sei in campagna. Naturalmente è meglio sempre evitare, però uno si deve anche difendere. Io ho sempre parlato. Altro che un colpo in aria, poi no, prima lui e poi in aria. Ah, così? Ok, è tornato il grande Riccardo, avanti Riccardino, c'è anche Franco da Sorso. Ehi, saluto a tutti, ciao anche a Franco. Oh, scusa Fabrizio, ci sei ancora? Mi sono dimenticato il mio padrino quando stavo andando a mangiare, scusami ancora. Sì, vediamo che faccio la prova che sto per chiudere, magari lo chiudo domani, però lo tengo sott'occhio. La modulazione è sempre buona, sì? Sì, la pandemia è tutto a posto. Scusate, Riccardo, hai provato quell'apparecchio che ti ho dato? Sì, sta andando benissimo per adesso, ancora sta andando bene. E deve andare bene, se già va bene, dai. Va bene, l'importante è, ti piace sia esteticamente che tutto, sì? Vabbè, sei un mago, sì, mi piace esteticamente e anche internamente, è perfetto. E internamente gli ho girato anche le mutandine, gli ho dovuto girare a quello, cesso. Meno male che un radioamatore che ti te l'ha venduto, lasciamo perdere poi già. Però adesso gli ho fatto un po' di tutto, quindi dovrebbe andare. Se non succede qualche altro falso contatto si vedrà, bisogna usarlo un pochettino per vedere se non è qualche altro coso occulto. Però per il resto ho fatto un sacco di allineamenti, ho un sacco di cavettini, li ho cambiati, un po' di condensatori, un po' di core resistente, un po' di tutto. E poi quei commutatori, poi gli ho messo a posto anche robe, quella parte che diceva che splatteravano, praticamente gli ho rimesso a posto sin da zona IF dove c'erano i filtri. Adesso gli ho ritirato anche lo strumento, gli ho messo tutto a posto, gli ho praticamente dietro visto quell'interruttore, con quello lui adesso sente interruttore normale perché gli manca il filtro AM. Quando lui poi mette il e quindi se sul 10 lui gira l'interruttore praticamente bypassa tutto, ma diventa larghissima banda in ascolto in AM, e lui può tranquillamente ascoltare. Se poi si deve spostare, fare ascolto in AM, che si deve spostare, metti l'interruttorino, come che praticamente bypasso la parte del filtro lì manca, perché deve uscire a 6 kHz. E quando, se tutto gli ho detto, infatti Riccardo, adesso usalo 20 giorni, un mese, se tutto va bene, a quel punto si può comprare il filtro, si buttano altri 50 euro perché si trova a seconda mano e te lo piazzo, e così è completa quella radio. Ehi, già lo so, sì, no, l'ho visto anche di nuovo, già me lo compro, non c'è problema se va tutto bene. Sì, adesso tu, aspetta, mettendo via altre due cose, adesso tu usalo così, se va bene lo puoi tranquillamente comprare, se va bene, però prima provalo perché non si sa mai, io non so cosa dirti Riccardo. Dovrebbe andare bene, però credo, per quello che ho fatto, credo che dovrebbe andare bene. C'era l'ultimo problema, era quello che clippava, ma era problema di un sensore alla fine, e dava una corrente negativa su un paio di transistor, ma dovrebbe essere a posto. Riprendi Robè, io vi saluto tutti e spengo, lascio qui, lo chiudo domani, così faccio qualche altra prova e vediamo un po'. Sì, ciao Fabio, ben sentito, dai, buon corretti, buona giornata per domani. Ok, vai Riccardo, poi Franco e poi Torino per i saluti per Fabrizio. Vai Riccardo. Ok, grazie Roberto per il mic, saluta Fabrizio, buon 144 quando lo fai, e ci sentiamo alle prossime. Più avanti domani, so che sarà anche stanco, ti faccio una bassa, che ti devo dire due cose. Va bene, chiamami domani. Ciao Fabrizio, ti saluto e ci sentiamo. Riccardo, ti porti sempre con rumore appresso. Avanti Franco. Ecco, ciao Fabrizio, ben ascoltato dopo tanto. Bene, ben tutto. E niente, buongiorno, ti chiamo che ti devo chiedere delle cose. Poi vediamo. Comunque Franco da Sorso. Avanti a te Riccardo. E gli da Franco un attimo che sto installando l'illuminazione dentro questa casetta, così almeno riesco a vedere, non sto al buio. E poi ci farei sentire, se non oggi, prossimamente la LAN 43, così vediamo come va con la postazione. Ecco, non ho capito l'illuminazione, non so se è sul caso. Ok, dai, ciao Fabri. No, siccome sta fatto una trattazione, ti spiego Franco, c'è una casa sopra l'albero, di lì si è messo un'antenna e sta arrivando molto più forte, non diciamo molto più forte di come usciva prima dalla trappostazione, ed è al buio, sta venendo solo con la luce degli apparati e sta portando qualche lampadinetta per cercare di vedere un po' meglio. Ah, ecco, ecco, ecco. Va bene, va bene. E allora, certo che anche lui, la casetta sull'albero, va bene. Sogno di tutti i bambini. Non lo so, è bello, c'è una bella storia a casa sua, dai. Sicuramente non è un ragazzo di appartamento, Riccardo, è pieno di vita e c'ha possibilità di esprimere tutta la propria pienezza di vita, perché c'ha un bellissimo appartamento di terreno, con animali, spazi enormi, divertimenti non ne parliamo. Molto bello avere una situazione del genere sognata da tanti bambini, perché ormai i bambini, noi giocavamo in strada, potevamo giocare, i ragazzini di adesso, i bambini più che i ragazzini. I bambini sono chiusi in casa, devono stare attenti i genitori, se no vanno incontro a delle situazioni molto ma molto pericolose. Ok, vai tu Tonino, a te il mic. Sì. E la campagna più grande e più c'è da fare, per carità. No. Qua sono 13 ettari, tutto roba. Cacca, 13 ettari è tantissimo, ci vuole la macchina per spostare. No, che non ci sono le solite persone. L'illuminazione ce l'abbiamo e stiamo facendo progressi qui. Evviva! Con un alimentatore, lampadino 12 volt, sia tutto. Parole sagge. Capo, li abbiamo fatti da ragazzini, ho fatto anch'io, nella tenda. Io fra, invece qua nel cortile ho illuminato a giorno. Hai un po' di ruzzica. Oi, oi. Guarda, vabbè, io non ci tengo a avere quella terra, non me la frega niente, che ne ho molto molto di più, ma lasciamo perdere. No, ma io, diciamo, non sto facendo niente, non so, in cui dove sono io e basta, non so, ho fatto l'orticello e mi dico ai cagnolini quando non c'è niente da fare. A meno c'è qualcosa da fare, c'hai, dai. Fai l'orticello, fai tutto, c'hai anche l'insalata, c'hai tutto, c'hai. Cosa ti puoi lamentare, Tony? Boh, io non ho capito. Va bene, vai, avanti Robè. Scusa Robè, mi manca il miglio, la mucca che mi dà il latte la mattina. Avanti Robè. Animali perché c'hai, Tony? No, negativo. Ho solo due cani, basta piccolini. E ecco, come ti arriva Franco di lì dalle tue parti? Sicuramente è fortissimo, no Tony? Vieni Fra, vieni a mano. A meno che non ho bevuto accetto stavolta. Passato, 9.22. Aspetta un attimo, che hai detto Tony? Un 9.22, buono. Pensavo più forte, sorso, lui non è di fronte a te. Lui è in discesa. C'è la collinetta dello blocco. Bisogna arrivare più forte ancora. Comunque 9.22 non è neanche brutto, eh. E ci mancherebbe, però io pensavo 9.40, forse ho detto, pensando che siete abbastanza vicini. Dimmi Riccardo. No, che stavo ricontrollando per sicurezza con un altro orologio le stazionarie. 1.1. Va benissimo allora, fai sempre la regolazione però mettendo a fondo scala, ricordati in posizione rosso, metti a fondo scala la lancetta levata e poi commuti, così ti rendi conto perché sennò ti inganna. No, sto usando proprio un rosmetro, sto usando l'HP1000. L'HP1000 ho controllato e andava bene anche in quello. E volevo vedere se stava facendo scherzi e invece no, già sta funzionando bene perché mi dà 1.1. Va benissimo, sino a 1.5 è tollerabile, poi oltre bisogna stare attenti. Lo so che bisogna stare attenti per sicurezza, perché sennò poi ti bruci al sito finale. Serio, con rosmetro più serio prendi l'HP1000. L'HP1000 non è serio. Franco, secondo te non lo so che non è serio. È un giocattolo dettagilo, ce l'ho così tanto perché non ne ho altri, sennò perché adesso me ne devo ordinare una cosa più professionale, no, non mi tengo l'HP1000. Capo, io ce l'ho, sono dei primi che avevo preso l'HP1000 perché non è anche un accordatore, diciamo che ti accorda un po', però non è serio, quindi dai, oppure altre marche serie. Già lo so, bisogna avere un po' di marchi più seri, non dettagli. Franco. E io. Come ti arrivo io a te? 6,95. E adesso? Io sei volato, ma sei a 7 quasi. Sono coperto, sei coperto tu per me e io per te. Probabilmente sì, se tu sei, quella zona di giù, sei coperto sì. Infatti quando io passo delle figlie ti porto a Santiago Zero, pensa un po', perché si vede che non sia Sassari. È certo che non sono Sassari. No, ma è anche se io sono in alto, che io quella zona, c'è un punto, specialmente dove sei tu, io ho capito dove sei tu, quello è coperto. Io sono aperto per Sassari, aperto per Muros, quelle zone lì, capito? Infatti, io Muros non, quasi non l'ascolto. L'ho immaginato. Avanti, Robè. Portatore se lo fai a bomba comunque, Fra. Io il portatore se lo bombardo. Ma lo immagino, se sei proprio, ce l'hai sotto. E poi Castelsardo con le donne badesi riesci ad andarci? Io tiro tra Castelsardo, Badesi, Santa Teresa di Gallura, e li faccio bene. Anche Santa Teresa addirittura arrivi. Certo. E lì c'era, non a Santa Teresa, a Vizalba c'era un CD che io riuscivo a parlarci, sino a Vizalba, poi oltre no. Capo, vabbè, adesso sono tanto tempo che non i vecchi che non li ascolto più. E dicevo che io, guarda, ti dico una cosa, lei a Santa Teresa da qua eravamo in due, e non so se tu te lo ricordi, Pietro Bacio di Ferro, eravamo in due. Eravamo gli unici che arrivavano a Santa Teresa con un segnale di 7-8. No, non l'ho conosciuto noi a Santa Teresa, neanche a parlarne, proprio zero. Capo, però siamo la zona più alta che c'è a Sorso, siamo la zona, perché Bacio di Ferro era a fianco a me, era vicino a me, una via più giù di me. Come si chiamava di nome Bacio di Ferro? Pietro. Ah, non era di Santa Teresa, sì, allora già l'ho già ci ho parlato con questo. Sì, Pietro Bracio di Ferro. Certo, sicuramente ci hai parlato tante volte. Diciamo che era tra io e lui, eravamo gli unici che uscivamo più forti di tutti, perché eravamo la zona più alta di Sorso, come io sono adesso, la zona più alta. Ma a Sorso ce n'erano tanti di CB anni fa, mi ricordo. Sì, Sorso era pieno. Eia, ok. Tony, a te il mic. No, io non ho sentito nessuno di Castelsardo, ma tu, neppure antenne. Io ci ho bazzicato per 12 anni e dirò che proprio l'antenna non ne ho mai visto. A Lubagno ce n'era una, però era una di amatore. Anche Lubagno, perché io ho la scuola anche lì, capito? E ci vado spesso per lavoro. Eia, Riccardo, ci sei ancora? Positivo, positivo, ci sono ancora. Adesso entra Claudio, mi ha chiesto due cose, voleva sapere come sta andando questa antenna nuova, infatti adesso gliela faccio sentire quando entra. Ok, no, di radio sei perfetto, il segnale è un po' più basso adesso rispetto a prima, stai cambiando baracchini uno dietro l'altro. Vabbè, metto il Midland che ha pochi più watt, Midland Alan 44, sai quale, e con quello spazio. Infatti voglio vederlo. Lo so. No, lo so se portarlo, perché dovrei portare l'alimentatore dedicato, perché si era rovinato l'alimentazione perché l'avevo sbagliata e dovrei regolarla. Invece con l'alimentatore che l'alimenta il suo, non c'è problema perché ha solo 13,8, invece con gli altri dovrei regolarlo. Riccardi. Cosa c'è, Tonino? Quanti tarne più 3B da tavolo hai? 4 tarne più 3. Quelli grigi. Te l'ho visto su Facebook, c'è la processione proprio. Sì, proprio la processione, John, è un bel quello. Che troppo che nulla, dai. Ah, io ne ho uno solo, mi basta questo. Avanti, Roberto. Io ne ho tre di Turner, e penso uno che ho io sia molto molto raro, perché è talmente vecchio. Io ho più 3B, poi ne ho uno militare, verde militare, che non so che cacchio sia, perché è uguale al più 3B, e poi ne ho uno che è un modello cercato su internet e nemmeno lo trovi. Uno ne ho trovato per sbaglio simile, però non è esattamente quel modello. Io ho quello originale, Matilusa, c'è scritto. No, anche questi sono americani. Uno è di qualche serie militare, secondo me, perché rimane verde militare questo microfono. Sono tutti e tre da tavolo, però i miei, non ne ho da palma. Infatti, Turner c'è scritto in blu, cioè il pezzo blu è scritto in bianco, plus 3. Somiglia più 3B. È il classico che ce l'hanno tutti e funzionano benissimo, sono microfoni eccezionali. Originale, non è mai stato modificato, perfetto, l'ho anche aperto per vederlo ed è tutto originale. Ok, Franco, a te il mic. Ecco, ne ho uno quello grigio, mi sembra che è guardato un po', che non funziona, me lo stanno mettendo a posto. Sono dei due microfoni quelli, insomma, a parte usare ZG, sono i migliori di tutti quelli di Turner, anche il 2 Sidney, che si può dire, quei Turner lì sono molto migliori. No, però c'è una cosa, che la gente sta uscendo fuori di testa. Chi ce li ha se li fa pagare, troppo, come la radio e tutto, stanno mettendo prezzi bassi. Io, ripeto, ce li ho e non ne do nessuno, me li ho comprati e mi va bene quello che ho. Potrei comprare ancora qualcosa, però ripeto, non vendo niente a nessuno. Fai bene, Tony, fai, tienili quelli, perché sono, guarda, se tu vai a comprare, compri a prezzi pazzi, ma veramente, cioè è impossibile certe cose pagarle a certi prezzi. Quello ha messo un Galaxy 500 euro, ma buffone, se poi anche modificato. No. Avanti, Roberto. Infatti qualcuno chiede la risposta se erano tutti e due la radio, e anche tutti e due non è poco. Io te l'ho chiesto, l'ho telefonato, ho detto ma tutti e due. No, padre, uno solo, anche manco il gioco. Ma scusa, l'hai pagato 300, no 350, allora tu metto 300. Ma poi, a me io sono fatto così, compro e poi rivendo. E vabbè, boh, chi te lo compra? Ehi, dai signori, io però adesso mollo, che sono un po' affaticato, dai. In questo caso oggi mi ha disintegrato. Saluto a te Tonino, saluto a Franco, saluto a Riccardino, eventuali qua amici in canale 10. Cuoretti da parte mia, aspetto il finalino e ci sentiamo eventualmente domani. Ciao Riccardino, secondo me faccio un salto domani sera, ora ci sentiamo per telefono. Avanti per i saluti. Ehi, dai, ciao Roberto, vediamo domani se va bene che puoi passare. Comunque ti saluto, buon 144 quando lo fai e ci sentiamo domani. Metto il cambio per Tonino. Ciao Roberto, buon corretti e molto l'arco personale. Ciao, stai bene, alla prossima. Avanti Franco. Ciao Roberto, buon 144, buon tutto, vai. Ci ascoltiamo tutte le prossime. Condizioni migliori. Capito? Riprendi tu, vai. Roberto si deve riprendere, poi fai girare. Avanti il break a muro. Ok, buonasera Claudio. Buonasera, quando sei entrato, ti volevo chiedere un controllino, visto che ho messo l'antenna da un'altra parte, o anche un po' più alta, come sto uscendo di Santiago, sono un po' più forte di radio. Sto usando il Colt Black Shadow, deve essere, non lo so cosa, forse perché prima stavo usando altro, stavo usando l'SBE ed è per quello che ha, non lo so, perché deve essere che quello ha più basso, il contrario, non lo so, bisogna provare perché devo portare altri apparati, ho solo il Colt e l'SBE qua sopra e anche il Tornado, dopo adesso provo ad attaccare anche il Tornado se è un pochino più forte. Ciao Claudio, ben sentito, Torino Kawasaki da Sassari, ti rilancio Franco da Sorso, avanti Franco. Non so se mi ascolta a me, comunque Franco da Sorso. Ciao, ti ho arrugginito, ho capito. Non so chi sia, vai, è la primiera perché non mi ricordo di aver modulato. È probabile che abbiamo modulato e non me lo ricordo io. Avanti a te, ti ho arrugginito. Io già ti arrivo bene, Claudia. Cappa, anche tu sei 9-10 spaccato qua. La rete 5 è bella chiara, perfetta. Riprendo e attacco il tornado adesso a vedere come sta andando, se esce meglio. E quindi continuate che lo attacco subito, devo misurare se una tensione giusta di 13,8 col tester. Perché non ce l'hai lo strumento? No, perché è sballato, questo è un alimentatore ZG, sono un giocattolo che avevo, però sono gli unici che ho, come qualche altro alimentatore dentro il garage, però non lo voglio portarlo perché sono di quelli pesanti. E mi hanno comprato un rosso per trovate, metterò quindi, vedo pure i batti che sto uscendo, e da lì non sbaglia mai. Bene, Franco, ripeti. Capo, volevo dire una cosa a Riccardino, ma è quello all'alimentatore o Luigi? All'alimentatore. Non dovrebbe scendere se non è toccato. Dovrebbe stare, se quello c'è lo stabilizzatore. Ma come durante il trasporto è successo che si sono sballate le regolazioni? Ah, cioè la manopola davanti per regolare? Sì, esatto, e per questo come me lo sono attaccato al fianco, come mi sono mosso, si è sballata la regolazione, capito? Cappa, va bene, regola allora, vai. Fai quello che devi fare, se non ti brucia la radio. Ok. Senti Claudio, ma Claudio, mi sembra che è figlio di Gianni Muros. Sto usando Intec Tornado 34S con il Turner Expander 500. Watt. Non l'ho portato perché è un mattone, poi a scenderlo, perché ti spiego, ho la scala che non è perfettamente, va un po' a cavoli suoi, si potrebbe spezzare qualche gradino, se mi male gradino con il 43, che si potrebbe rompere e quindi non l'ho portato, devo aspettare a comprare la scala nuova e così posso portarmi anche quello e così picchio anche con quello dalla stazione nuova. K, io mi sono messo il microfono normale adesso. Ho attaccato il preampi, com'è la radio? Portate, già mi sentite bene, sto qua. Salutami a Gianni comunque che è vicino a te, che non l'ho più sentito. Avanti, Franco. Ciao Gianni, ben riascoltato dopo secoli, ci sentiamo, cappa, vabbè vai, ogni tanto bisogna sentirci, avanti, Riccardino riprendi. Comunque ciao Gianni, ben ascoltato dopo tanto via radio, da un po' che non rientravi, lo so che eri anche indaffarato. E niente, comunque Claudio, ti volevo dire, adesso sto trasmettendo dalla casetta sull'albero che aveva fatto Babbo tanto tempo fa, e poi quando voglio stare al caldo mi stendo il cavo e vado dentro casa. Più o meno è alto 6 metri di albero, quindi sono al primo piano, più vabbè 7 metri di antenna e più ci sono anche 5 metri di palo. Ho sentito un piriricchio che vuole entrare avanti. Ciao, bidoncino. Non è Barracuda, è chiuso il ginito, da Muros. E poi c'è Franco da Sorso, R. Cabino e io. E comunque buonasera a tutti quanti, complessi del canale. Ciao Giuseppe, ben ascoltato. Ciao, Giuseppe. Devi parlare, mi si vuole. Allora, sto bene. Sto bene, Giuseppe. Ben ascoltato dopo tanto tempo. Capito, pensavo che non entravi più, Va bene, meglio così. Vedo che sei sempre attivo. Avanti, chiodo. Ma questa antenna non te l'hai messa ancora? Ancora non ho avuto partito. Adesso vediamo. Nella prossima settimana vediamo un po' cosa fare. Ok. Avanti Riccardino. Vado avanti io. Comunque saluto a Giuseppe, ben ascoltato. E Claudio, ti ho mandato le foto al numero di Gianni, se riuscite a vederle. Ti ringrazio perché adesso faccio fuori ti e domani devo trabaccare, quindi sono un po' stanchino pure, oggi tutto il giorno sotto il sole, va bene, ok Claudio, torna via Gianni, salutone al vostro cuore familiare, buon fuori quando lo farete. Ciao Franco, ben sentito, salutoni a Correa e ciao Riccardino, ci ci sentiamo alle prossime. Ciao Bidoncino, questo è un Bidoncino, va bene lo stesso Leoncino. Buon proseguo, alle prossime. Ciao a tutti e buonanotte. Tonino, buon 144 quando lo fai e buon lavoro per domani. Grazie, ciao ciao. Kappa, ciao Tonino. Ci ascoltiamo tutte le prossime volte, buon trabacco. E vai Gini, cosa sta bravagliando? Un altro anno è buono, fra, poi tutto a conto mio. Speriamo. Avanti, chiamo. Giuseppe, Leoncino, ci sei? Qualcuno ci sono, ci sono. Allora un attimo, stavo per una cosa. Kappa, c'è chi è che ti ha rilanciato. Allora, raccontami bello, cosa sta combinando lui? Dalla vista. Sì, io? Cosa devo combinare? Io sono arrivato alla boom. Mi sono fermato e lavoro ma ci sto pensando. Penso c'è l'impici che pensa per me. Capo, sta riuscendo tutto a fischi. Sì, sì, c'è qualche problemino lì. Perché non sto usando la zona centrale, sto usando la turbo 2001 che ho fatto, dunque a volte funziona, a volte è così. Domani vedrò di controllarla meglio. E come l'hai piazzata? No, ci hai messo qualche tappa, qualcosa grosso? Sì, l'ho piazzata una specie di stampetta, ho piazzato, attaccato a colpo. Al palo centrale, va. Capo, no, sicuramente dovrebbe avere fatto male, no. Dovrebbe avere qualche punto. No, lo so. Che, vabbè, qua arrivi. Non arrivi tanto bene. Il radio ti capisco al 100%. Il segnale è un po' basso. Niente. Non so com'è andato a raggiunto. Via Muros, avanti Muros. No, è che Giuseppe, come stavo uscendo un po' male, con la, dice, c'è l'antenna, la Turbo 2001, non so a che livello può essere una 2001 su un palo. Giuseppe, l'hai sentito? Guarda poi, Giuseppe. No, se non ascolta a me, Giuseppe, allora probabilmente c'è qualche problema. Sì, Claudio, ho sentito quello che hai detto. È probabile che. Purtroppo lui è un'antenna precaria, vai. Guarda come comincia adesso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aspetta, scusa. Giuseppe? Sì. Cos'è che stavi dicendo? Ho detto, guarda com'è adesso il segnale, se è aumentato o diminuito. Guarda, sì, 5, modulati a 6. l'orario diciamo che è un po' buono. Già va bene, aspetta che cioè, la prossima settimana buttiamo giù il faro e vediamo un po' di sistemare l'orario. Allora stavo dicendo, io ho raggiunto, che tu conosci bene le padre, che gli avevi venduto l'apparato. Sì, conosco abbastanza bene. Io avevo già più conoscenza. Bene, allora ti Claudio. Sì. Vabbè, non tanto che sono, vabbè, apparati vecchi sono. Sono gli avanti, come tuo padre, degli apparati vecchi, sono belli, piacciono anche a me, ma non mi piace fare la collezione. Guarda, ti chiedo. C'era anche tuo padre, quello lì che ho io, il Midland, adesso non mi ricordo la sigla, che è del 78, quella radio lì, è bianca, che non mi ricordo neanche la sigla più, non mi ricordo, ce l'ho nel telefonino, ce l'ho, ma non mi ricordo niente, per adesso. L'ho fatto a Torino, io non facevo niente, al massimo rimaneva lì senza utilizzare. È proprio quella, la 78574 Midland, è proprio quella lì, era bianca, con tutti i pomelloni belli cromati, è una bella radio, però che io non l'ho utilizzato, l'ho data a Tonino da poco, l'avevo solo provata in AM, l'avevo provata, era uno spettacolo, in AM usciva molto bene, poi in arresto non l'ho provato per niente. Belli, ci sono ancora io. Scusa, sono dimenticato di te, chiedo scusa, avanti Erika. Sto scherzando, ci mancherebbe altro. Però la radio è buona, il Santiago è forse uno smetraforo, però mi sta dando a questa parte Santiago 5 e Radio 5. E cava la parte mia non l'ascolto. Allora forse questa forse sta arrivando anche bene per visto che è basso e da te non arriva invece. No, prima arrivava bene, arrivava a 5 di segnale, modulati 6, e adesso non arriva niente. Arrivi leggermente del radio, ti capisco leggermente. Segnale 0. E come che non abbia l'antenna, capito? Come che non abbia l'antenna, Giuseppe. E segnalato non si muove neanche, è vero. E segnale, la radio è uno proprio, è comprensibile, sì, ma basta. Avanti di qua. Ma non ho capito perché Giuseppe non è attrezzato a una condizione di lavoro scarsa, a quanto ho capito, se ho capito bene. Non lo so, Riccardo, se nelle sue connessioni non lo so come sono messe. Non è quello il problema. Ci sono tanti tipi di problemi, non solo le condizioni di lavoro scarso. Sono anche tipi di condizioni che qualcuno non si fa cattare la penna, qualcuno non si fa fare una cosa, si fa fare l'altra. Mica, ho notato che da quando sono entrato io ha cambiato tre apparati di senso. Il primo era sempre il migliore. Ho capito, la stazione base Colt, uscita 8 watt. Sì, quello esce bene. Adesso, per farti un esempio, con questo sto uscendo con poco di meno proprio. E infatti il Colt mi hanno detto che è il migliore sia di radio che di segnale. Però se metto il Midland Alan 44 esco bene con quello anche. Ecco. E peraltro, perché stai abbassando di tutto. Sia di... diciamo, la radio più o meno è quasi sempre allo stesso livello, però il segnale sta sempre andando e abbassando, non è abbassato. Ecco, sì, lo so, infatti mi devo abituare qualche volta ad usare solo un apparato, perché mi piace variare per provare tutto, perché questa volta ho cambiato per vedere se stava andando bene questa antenna che ho piazzato comunque. Però mi hanno detto che sono anche sollevato i segnali e vabbè, la radio è sempre uguale, lo stesso apparato. E niente, se metto questo call quindi va bene, però penso che non lo sto riattaccare perché tra un po' vado via, resto altri 10 minuti che poi devo sbaraccare tutto perché anche... oppure mi posso portare il cavo dentro e così posso parlare anche da dentro. Cazzo. Come sarebbe sbaraccare tutto? Devi smontare tutto e riportarlo dentro. Se voglio, oppure prendo da qui un baracchino, me lo porto dentro, da qui, dalla casetta sull'albero, prendo il cavo e lo porto dentro casa, visto che è attaccata la casa alla casetta sull'albero, e così da lì posso parlare anche da dentro al caldo. Ah, cazzo, sì, ho capito. Vabbè, sì, inizabile, vai, salti da un punto all'altro, va bene, conviene farti una stazione in un punto buono e basta, con una radio sola, non devi stare lì a cambiare 200 radio, tanto non ne fai niente. Non è comprare 200 radio che non ne fai niente, non ne fai, ne usi una e basta. Guarda, io ne ho una buona e sta andando, e arriva da tutte le parti. Non arriverà quel segnale molto rosso, no, almeno la radio ci arriverà. Avanti, ti ho arrugginito. Bravo, Alan 48 non ne ho io, di Alan 48 non ne ho mai avuto ancora presso, forse lo avrò più avanti, però adesso non ne ho. Comunque ti ringrazio ancora per le radio che ho, per i complimenti che mi hai fatto. Volentieri, quando posso, come stavo parlando con i tuoi genitori, e posso, visto quando mia sorella vuole andare dall'amica lì a Muros, ci faccio un salto anche io. Lei va dall'amica, io vengo da te, sempre se sei libero. Io riprendo perché ho visto che ore sono e mi sta venendo un po', mi stanno chiudendo gli occhi, dai, e niente, e ci ascoltiamo tutte le prossime, mi ha fatto piacere di sentirvi stasera, e niente, e ciao Riccardino, ma comunque non stare lì a comprare troppo e stare lì cambia, mettene uno buono e sincero, che esca bene e che non ti tradisca mai, e quelle sono le radio migliori. E poi mi sembra che un giorno avevo sentito che avevi comprato anche un K, non so perché non lo stai usando, però non ho capito perché. Io non è che sono tutti i giorni qua alla radio e non ti ho più sentito, niente. Ciao anche a te, ti ho arrugginito, ben ascoltato, mi ha fatto piacere sentirti. Saluto a Gianni e tutte le prossimine. Per me va 18:44, ce la ascoltiamo. Riprendi tu che ho arrugginito e ce la ascoltiamo le prossimine. Ciao, salutoni e un abbraccio a Gianni. Grazie Claudio per il mic, saluto a Franco, buon 144 quando lo fai e ci sentiamo alle prossime. Comunque quell'apparato non lo sto usando, lo uso di solito in stazione nell'altra, qua non l'ho ancora portato perché è un bel pesante, dovrei farmi tutte le scale e non ne avevo voglia perché dovrei prendere anche il suo alimentatore dedicato, pesa un bel. E in questi giorni come me la dentro, però potrei usarla, basta che porto il cavo dentro. E niente, come ho detto, buon 144 e Claudio ti volevo dire, così mi farebbe piacere anche se tu passi a vedere la nostra stazione. Confermo, una meraviglia, quello che avete anche voi. Aspetta. Riccardino, lo senti? Sento, c'è Claudio un attimo. Bello, me l'ha detto tuo padre, che purtroppo non va in trasmissione, però deve essere un grandissimo baracchino. Se lo metti da se lo mettete a posto va benissimo, penso. Comunque, chi è che mi stava chiamando, che era stato Claudio? Scusa Claudio, Riccardi, uso quell'apparato perché quando ti farò la stazione abbiamo tutto da una parte, usalo e usa sempre quello perché è una cosa molto meravigliosa usare quello lì. Lo sto usando io adesso, lo sto usando, è una bella radio. Grazie Fra, sì, lo so che è proprio una bella radio, me la devo portare dentro, non la lascio fuori alle intemperie. Adesso più tardi mi porto il cavo dentro, che così domani mattina non devo neanche riandare in garage, mi sveglio e davanti alla scrivania con quell'apparato. Scappa, usalo bene, che è una bellissima radio. Ti dico che ti innamori poi di quella radio lì. Ciao, buonanotte a tutti. Ciao, buonanotte anche a te. Io devo staccare già da un po'. Se Claudio, se rimani, rimango volentieri, mi fa piacere fare due chiacchiere. Delle radio antiche, quelle anni 80, 60, che sono anche quelle molto belle. Comunque sì, il Sommercamp esce benissimo e anche la LAN 48 non va male. mi ricordo, perché anche per Babbo è stato tra i primi baracchini che ha avuto, il primo proprio, perché si ricorda proprio di questa luce blu, quella luce blu e quella rossa, la ricezione e la trasmissione. Tutti, perché è come vedere le macchine, tipo hanno fatto molto tempo fa la Mustang in America, bellissima tutto, e adesso se vai a vederla secondo me è davvero brutta, era meglio come era prima, però ci sono quelli che gli piacciono più per il moderno. Qualche macchina che abbiamo qui a casa che ricordano un po' quelle, non saranno uguali, però si avvicinano sempre al stile americano. Comunque sì, ci piacciono molto macchine americane e film, Fast and Furious, quelli con tutti una saga americana che si vedono soprattutto le macchine. Abbiamo quelle un po' più da lavoro, tipo station wagon, pick up, e niente, di quelli, non macchine da corsa, no, di quelle no. C'è tipo la station wagon che è vintage, che è dell'80, e poi quella è molto bella, che è vecchia, vintage, e poi gli altri due, ci sono gli altri due pick up che sono quasi degli anni 2000, sono del 98 e uno del 99. Cellula sopra il camper il fine settimana mi sorprende, così vedi anche le foto della stazione che mi sono organizzato su, e ti mando quando prende le foto della cellula sopra il pick up che diventa un mostro da quanto è grande. sera e va risolta comunque. Questa cosa è assurda perché non puoi fare niente, te devi aspettare all'internet oppure uscire, dovresti stare tranquillo dentro casa e fare quello che ti serve. Se devi fare, devi controllarti le mail e tutto, cioè non puoi. Ti fai un esempio che oggi, anche visto che c'è un po' di preparazione, hanno chiesto QSL e andate via mail ormai. E se ero come te che non avevo internet, come facevo a rispondergli? È un problema proprio. Questa cosa, non pensavo, cioè ti metti il cappellino e come dire ti butta un po' via Facebook e non lo sapevo, è stranissima questa cosa che praticamente sei coperto e quindi non ti hanno confermato l'identità e niente, così che ti volevo dire, aspetta, mi sono dimenticata a sé. Fa piacere fare due chiacchiere con te e con tutti, però vi devo lasciare che vado anche a fare caricapompine, mi bevo qualcosa da bere che ho anche l'acqua secca e così ci sentiamo domani. Mi dispiace che non possiamo continuare a parlare e comunque come detto ci sentiamo domani. Ciao, buon 144 anche a te e a Gianni e a tua madre se anche lei all'ascolto e assoluto anche a tutte le altre orecchie di porco e ci sentiamo domani. ciao Claudio, ci sentiamo domani e niente, sì, ti avviso prima se passo in quella zona e ci sei a casa, se no un'altra volta. E va, adesso stacco, provo a porto tutto dentro e mi porto anche il cavo, che così non ho problema domani mattina. Da, ripeto, saluto tutto al tuo correa familiare e stacco, da, sto spegnendo, ciao. Ciao, buonanotte a tutti e due. Buon buio. Nel prossimo ci sentiamo, buonanotte a tutti e due. Tonello, buonanotte anche a te, buon 144, a domani. Per tanto non c'è problema.